9 in punto. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi. Oggi parliamo di crisi finanziaria, parliamo dell'intervento di Berlusconi ieri alle Camere, un intervento molto atteso, a cui si attendeva forse qualcosa di più. Chi attendeva qualche misura nuova, qualche misura aggiuntiva è stato deluso. Chi attendeva, come forse era lecito attendersi, una riconferma della linea del governo ha avuto questa riconferma. Berlusconi ha sottolineato come l'Italia sia un paese sostanzialmente solido, come la manovra approvata vada nella direzione giusta, anche se poi ha fatto delle aperture al dialogo delle parti sociali. Tra l'altro oggi ci sarà un incontro con le parti sociali, ha chiesto all'opposizione idee, proposte, progetti per rilanciare la ripresa, ma da lui non è venuto un intervento concreto, qualche misura concreta, appunto, soprattutto sul fronte della ripresa, che è la vera malattia italiana. Un'economia stagnante, un'economia solida, forte, ma sostanzialmente stagnante, che non riesce a crescere. Il giorno dopo i mercati hanno aperto bene, ma tutti i mercati europei, e forse ancora presto per dire che i mercati hanno reagito positivamente al discorso di Berlusconi. I mercati si muovono un po' insieme, come abbiamo visto negli ultimi giorni, ed è vero quanto dicono alcuni esperti, che la speculazione sta prendendo di mira non tanto l'Italia quanto l'euro, nei suoi punti deboli, che sono appunto poi Spagna e Italia, oltre che la Grecia. Vedremo poi nelle prossime ore anche come andrà questo famoso spread, questo differenziale tra BTP e Bund, che è un po' l'indicatore dell'indice di rischio dell'Italia. Ma parliamo un punto del discorso di Berlusconi, di quello che ci si attendeva, di quello che si può fare. Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento. Guido Gentili, buongiorno Gentili. Buongiorno. Editorialista del Sole 24 Ore. Professor Alberto Quadrio Curzio, buongiorno professore. Buongiorno. Professor Quadrio Curzio è economista, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica di Milano, collaboratore del Corriere della Sera, e ne parliamo con Benito Benedini. Buongiorno dottor Benedini. Buongiorno. Imprenditore, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, già presidente dell'Asso Lombarda. Guido Gentili, da giornalista ieri avevi scritto un editoriale sul Sole 24 Ore che aveva come titolo Le risposte che deve dare. Allora, queste risposte ci sono state, Gentili? Ci sono state molto, molto, molto in parte. Non c'è stato il colpo d'ala che ci si attendeva, e quindi diciamo non c'è nessun provvedimento che è stato delineato nell'intervento del Presidente del Consiglio che abbia la forza, diciamo, di imporsi subito. Quindi rimane secondo me la grande preoccupazione per quella che sarà la reazione, ma non solo oggi ma ovviamente nei prossimi giorni, dei mercati. Oggi è vero anche che c'è un importante incontro, si svolge oggi, tra il governo e le parti sociali, poi le parti sociali incontreranno anche le opposizioni, e Berlusconi ha messo l'accento su questo punto, diciamo, riproponendo l'idea di un patto sociale per la crescita, e quindi ha detto testualmente: ci adopereremo per un'intesa sui modi per realizzare un'efficace unità di intenti. Però appunto mi sembra che siamo ancora all'unità di intenti, cioè non vedo nulla di concreto che diciamo possa essere adottato immediatamente. Ecco, forse sarebbe stato meglio se si fosse agito in maniera diversa, cioè se il governo avesse incontrato le parti sociali, magari anche l'opposizione, avesse concordato dei provvedimenti e poi avesse presentato questi provvedimenti e queste risoluzioni in Parlamento. Assolutamente, esattamente, cioè il percorso ieri non è stato nemmeno un dibattito vero e proprio, sono state delle comunicazioni del Presidente del Consiglio a cui hanno fatto seguito dei brevi interventi dei partiti rappresentati in Parlamento. Non è stato un vero e proprio dibattito, e quindi si è, in qualche modo bisognerebbe ritornare in Parlamento dopo l'intervento con le parti sociali, però credo che diciamo questo percorso non sia previsto al momento, e quindi dobbiamo accontentarci di questo piccolo dibattito che c'è stato ieri e sperare che l'incontro di oggi con le parti sociali sia più operativo. Ecco, ma questo sperare che sia più operativo resta una speranza. Non ci sono avvisaglie di misure concrete che Berlusconi proporrà alle parti sociali, probabilmente si limiterà ad ascoltare le loro proposte. Sì, si dovrà ascoltare le loro proposte e diciamo a fare una sintesi e probabilmente a riconfermare la disponibilità del governo ad accompagnare quelli che sono le possibili intese tra le parti sociali per la crescita. non credo che abbia in cantiere un provvedimento vero e proprio, diciamo, da sottoporre all'esame delle parti sociali. Anche perché il Parlamento mi sembra che ieri abbia fatto le valigie e sia andato tranquillamente in vacanza. Esatto, esatto. E quindi, salvo, diciamo, speriamo tutti che non accada, insomma, salvo convocazioni eccezionali per un, se si dovesse, diciamo, ricreare una situazione di emergenza d'allarme rosso sui mercati, e se ne riparla alla fine del mese con la convocazione delle commissioni e all'inizio di settembre con la ripresa dei lavori dell'Aula. Quindi al momento non sono previsti altri diciamo appuntamenti di verifica parlamentare alle Camere. Ecco, i mercati purtroppo non vanno in vacanza, purtroppo per fortuna, perché è giusto che poi i mercati funzionano, speriamo che siano più tranquilli che dei giorni passati, anche se i tempi dell'economia, i tempi della finanza sono certamente diversi dai tempi della politica. La politica dovrebbe forse adeguarsi un po' meglio a quelle che sono le realtà, le richieste che sono poi quelle della società, non è tanto quella dei mercati visti come qualcosa di lontano. I mercati sono un'espressione poi in fondo della società, dei risparmiatori, dei cittadini. Professor Quadrio Curzio, che cosa è mancato secondo lei nel discorso di Berlusconi? Io credo che quando si va di fronte al Parlamento si possano usare due diverse tonalità, peraltro complementari tra di loro. Se si vuole coinvolgere tutto il Parlamento in un grande progetto di riforma del sistema paese, bisogna spiegare qual è il progetto di riforma, e sotto questo profilo io credo che sarebbe molto utile per tutta la classe politica italiana rileggersi quanto il presidente Ciampi disse nel corso del suo settennato e anche quanto il presidente Napolitano continua a dire. L'Italia dovrebbe avere un suo modello di sistema paese che, ahimè, non ha. Credo che noi potremmo prendere buon esempio dalla Germania con la sua economia sociale di mercato che funziona molto bene e chiederci se quello non sia anche il nostro modello e coinvolgere tutta la parte politica nella ricostruzione di un modello. Questo, diciamo così, è volare alto. I due presidenti della Repubblica ultimi che abbiamo avuto lo hanno fatto e lo stanno facendo. La seconda linea da tenere, al di là dei giusti riconoscimenti che il Paese è un Paese solido, perché tale è, e che ovviamente la manovra di finanza pubblica, se stiamo alle parole dei commissari europei, del Presidente del Consiglio europeo, del Presidente dell'Eurogruppo, è la manovra adeguata in questo momento, ebbene, riconosciuto tutto ciò, bisognava dire qualcosa di più sulla crescita. Sono state prefigurate quattro linee di intervento per la crescita, ma sono linee che vanno approfondite, altrimenti rimangono degli enunciati, e l'incontro con le parti sociali sarà importante, ma dopo quell'incontro bisognerà mettere in piedi un sistema che sia un sistema che funziona in via durevole. Sotto questo profilo, per esempio, una misura che è stata sperimentata con significativi risultati in Germania, misura immediata che certo non cambia un sistema, sarebbe stata quella di annunciare una riduzione di un punto di PIL sui contributi sociali, compensando tutto ciò con l'IVA, perché bisogna ovviamente neutralizzare gli effetti negativi della riduzione dei contributi sul gettito. Ebbene, questa misura, se è stato stimato da istituti di ricerca molto accreditati, darebbe sul primo anno di effetto un calo dello 0,2 del PIL, sempre a parità di conti pubblici, nel secondo anno sarebbe neutrale e dal terzo o quarto anno in avanti darebbe un contributo dello 0,4-0,5 alla crescita del PIL. Ecco, io sono passato da un enunciato grande, economia sociale di mercato, a quello che apparentemente è un enunciato piccolo, transitando per via intermedia da quelle quattro grandi filiere, e cioè riforma fiscale, investimenti e infrastrutture, relazioni industriali e anche un'altra filiera che è quella banca impresa che il Presidente del Consiglio ieri ha enunciato. Ho l'impressione che al di là degli enunciati sulle quattro grandi filiere non ci sia stato granché. Certo, sappiamo anche noi che le imprese italiane sono forti, ma sappiamo anche che la forza può esaurirsi. Ecco, le imprese italiane sono forti, il quadro sicuramente è un quadro di stabilità, però appunto delle misure per la crescita o interventi sia di agevolazione, sia di rilancio, sia di semplificazione sono richieste un po' da tutti. Io ricordo il numero verde 800 24 0024 per le chiamate degli ascoltatori, per i messaggi SMS e 349 238 6666. Ecco, le imprese sono ovviamente in prima fila nel difendere, di difendere la credibilità italiana, di difendere la competitività italiana. Le imprese hanno chiesto anche una discontinuità nella politica, una politica che sappia essere coerente ed efficace. Ieri, peraltro, in contemporanea col discorso di Berlusconi, qualche ora prima, anzi, il CIPE ha varato e ha dato il via libera dei finanziamenti per le opere pubbliche, per esempio per la Torino-Rione, per la Salerno-Reggio Calabria. Da profano pensavo che questi finanziamenti fossero già in essere da tempo. È uno Stato in fondo un po' macchinoso, uno Stato che è ancora incapace di spendere gli stessi soldi. Vediamo come le regioni del Mezzogiorno siano incapaci di spendere gli stessi fondi europei che vengono dati per gli investimenti. Allora, cosa si attendevano le imprese e cosa si attendono ancora a questo punto? Lo chiediamo a Benito Benedini. Buongiorno Benedini. Buongiorno, buongiorno. Ma direi che io sono rimasto un pochino deluso, mi aspettavo dal discorso, che ha toccato tanti punti, punti interessanti come quello di attuare la delega fiscale a breve, quello di tagliare alcune spese pubbliche, però diciamo mi sembra poco, ecco, non è stato detto nulla da Berlusconi per quanto riguarda un aiuto vero e proprio alle imprese per lo sviluppo e quello di cui abbiamo bisogno. Su questo direi che sono stati fatti solo degli accenni e quindi non si sono avuto delle risposte. Forse non poteva darle perché non sono pronti per farlo, però certamente da questo punto di vista è molto deludente. Per esempio anche sul fronte del taglio delle spese direi che dire meno auto blu e dire stipendi media way sono poche cose, un panagiere, cioè è un qualcosa che veramente sappiamo benissimo che certamente non viene toccato il punto focale. Il punto focale sono per esempio tutti quegli enti inutili, sappiamo che sono più di 400 gli enti, di cui la metà sono inutili, sappiamo che costano 14 miliardi all'Italia, 14 miliardi è quasi una manovra diciamo sostanziale per quanto riguarda la nostra. Purtroppo di questo non è stato detto nulla. Parliamo poi una cosa che le imprese ci tengono molto, anche la cosiddetta liberalizzazione. Lì di questo proprio non è stato assolutamente toccato niente nel discorso, non si è parlato di liberalizzazione, non parlo di privatizzazione, parlo soprattutto di liberalizzazione. Non è stato detto nulla sul fronte, anche qui alle imprese si aspettano molto, sul fronte dello snellimento delle procedure la pubblica amministrazione. Questo è un cancro che noi abbiamo da parecchio tempo, la burocrazia italiana è pazzesca, nel senso che per un'impresa ancora oggi per aprire uno stabilimento o per fare o per ampliarlo quant'altro ha bisogno di passare attraverso 14 istruzioni, ha bisogno di passare attraverso una decina di autorizzazioni, ha bisogno di aspettare anni, quando la stessa impresa all'estero magari in 60-90 giorni i risultati che devo ottenere. Quindi questo è un qualcosa veramente che ci blocca, blocca l'impresa, ma soprattutto, ed è questo importante, soprattutto non attira gli investimenti dall'estero. Ormai noi siamo negli anni 60, mi ricordo perfettamente che di una torta di 100% di investimenti americani all'estero il 40% arrivava in Italia, adesso sì, no, arriva un 2%, quindi c'è questa mancanza di fiducia proprio dovuta a tutte queste cose, dovuta a questa situazione che purtroppo l'Italia ha, e non i buoni sforzi di Brunetta e degli altri, direi che dopo Bassanino non è stato fatto niente per quanto riguarda appunto lo snellimento delle procedure. Ecco, lei, quindi, dottor Benedini, concorda con Quadro Curzio, manca in fondo un modello, un nuovo modello sociale, un modello politico a cui tendere, da realizzare. Si va avanti per piccoli o piccolissimi aggiustamenti, anche con queste manovre come l'ultima manovra, che magari rimandano anche i problemi, però un vero modello di società più aperta, più libera, capace più di essere competitiva non c'è in Italia. No, non c'è, ma d'altronde guardi, io le dico con col cinismo, non è che mi aspettassi che in questo discorso ci fossero dei modelli, cambiamento, quanto. Direi che il discorso del Presidente è stato scorso a 360 gradi. Ecco, c'è qualche problema di comunicazione, adesso vediamo di ripristinare il collegamento con dottor Benedini. Professor Quadrocurzio, questo modello però è un modello che richiederebbe una responsabilità politica che nell'attuale fase politica sembra non possa esserci. La stessa maggioranza è più o meno divisa, ha qualche problema anche con la magistratura, anche l'opposizione non è in grande forza, ci vorrebbe una politica più forte, professor Quadrocurzio. Non c'è dubbio, ma nella storia del nostro paese ci sono stati dei momenti di politica forte. Posso ricordare uno per tutti che la Costituente e la Costituzione portarono a delineare un modello che era certamente quello dell'economia mista di mercato, il quale modello poteva avere anche due varianti, una più dirigista e l'altra più liberale. Purtroppo poi dalla seconda parte degli anni 60 si è configurato una specie di ircocervo per cui è venuto fuori un assistenzialismo dirigista che non era né l'uno né l'altro modello. Ora noi dobbiamo, a mio avviso, riprogettare il sistema Italia. Per fare questo ci vuole del tempo, ma per farlo bisogna anche pensarlo prima. Io non credo che nell'alternanza dei governi con piccole riforme enunciate in modo plateale ma poi mal realizzate, si possano superare dei divari anche territoriali che ci stiamo portando dietro da troppi anni. Quindi riforme piccole vanno bene, ma bisogna collocarle in un percorso. Ecco, in questa prospettiva, chiedo a Guido Gentili, l'immagine delle forze politiche non lascia presagire la possibilità di qualche alleanza significativa, non dico dell'unità nazionale, però delle stesse alleanze che chiede Berlusconi. Forse c'è difficoltà a raggiungere all'interno della stessa maggioranza, figuriamoci, possiamo dire, con l'opposizione. Guido Gentili. Sì, ieri Berlusconi per la verità ha raccolto l'appello alla coesione di Napolitano, lo ha fatto in modo molto esplicito, però la situazione reale e di rapporti tra chi ci sono nella maggioranza e tra maggioranza e opposizione è parsa evidente un minuto dopo, cioè la stessa opposizione per esempio ha prospetta delle soluzioni diverse. Abbiamo sentito quello che ha detto Bersani dicendo noi siamo disposti a fare un passo in avanti se però Berlusconi fa un passo indietro, quindi c'è una pregiudiziale sul che riguarda l'abbandono di Berlusconi del premiership. E viceversa Casini ha detto il problema non è Berlusconi ma è la necessità di una tregua e quindi di un governo di decantazione. Quindi la stessa opposizione su questo non è unita. Di Pietro poi ha detto anche lui che Berlusconi deve dimettersi. Quindi al di là di quello che è stato un risultato oggettivamente importante che si è raggiunto il 6 luglio scorso con l'approvazione lampo della manovra economica, con l'opposizione che ha rinunciato a fare dell'ostruzionismo e la maggioranza che ha ritirato molti emendamenti, ecco, però al di là di questo siamo fermi a questo punto. Ha ragione il professor Quadrocurzio quando dice noi si è poi nel paese, in questo nella storia recente del paese, si è affermato un modello assistenzialista e dirigista al tempo stesso. E Berlusconi, ricordiamoci, nel 94 aveva cominciato a profilare la rottura di questo schema con la famosa rivoluzione liberale. Purtroppo siamo ancora fermi a questo punto, cioè è un paese ancora fermo che necessita di riforme strutturali di fondo, riforme di sistema, non si riesce a farle, procediamo per piccoli aggiustamenti e spesso addirittura magari quando cambia il governo cambiamo di nuovo il segno della riforma e quindi in questo modo ci troviamo poi nelle condizioni attuali, cioè un paese fermo sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico e istituzionale. È un paese che viaggia in fondo nonostante la politica mette qualche bastone tra le ruote, fa anche del bene indubbiamente in alcuni casi, però le risposte che potrebbe dare se fosse una politica efficiente con un modello, con un preciso ideale di fondo sarebbe certamente diversa, ma la politica è quella che è, non è quella che noi vorremmo. Ci sono alcuni ascoltatori in linea ma prima lasciamo un po' di spazio alla pubblicità. Rieccoci a parlare di situazione economica, del discorso di Berlusconi ieri in Parlamento, delle prospettive dell'Italia, di quello che l'Italia avrebbe bisogno per cercare di smuovere un po' l'economia, un'economia che da troppi anni è stagnante, anche se al di là della stagnazione c'è una solidità di fondo del sistema economico, come ha ricordato lo stesso Berlusconi. Sentiamo Margherita da Milano, buongiorno. Sì, buona giornata a voi. Stamattina cado probabilmente un po' come il cappello nella zuppa, visto che non sono sicuramente all'altezza di tutti gli aspetti, gli esperti che si esprimono in questo momento, però parlo da cittadino, e da cittadino di 74 anni che vota quindi da tanto tempo e che vota, che spera nel buon Dio di poter continuare a votare. Allora, punto primo, il discorso di Berlusconi è quello che non ha detto. Se avesse anticipato provvedimenti, riforme, come gli si chiede da molte parti, avrebbe sicuramente stamattina sollevato le proteste di quanti comunque lo devono criticare e che quindi l'avrebbero trattato da dittatore che poi incontra le parti sociali, ma lui ha già deciso tutto anche per loro. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, io come cittadino, naturalmente parlo solo come cittadino, ma cittadino però che gira in macchina, va nei ristoranti qualche volta, va nei supermercati, mercati, va sulle strade, questo allarmismo che viene così costantemente intrattenuto da tutto il sistema di sinistra della povertà degli italiani, non mi trova d'accordo, ma non trova d'accordo con me molti altri cittadini, perché le strade al minimo weekend sono invase da macchine e tutte di cilindrate importanti, io c'ho la mia che è piccolina, ma le altre sono per lo più importanti, che vanno nei ristoranti che sono sempre pieni, vanno nei luoghi di vacanza che sono sempre pieni. Certo, probabilmente vanno per tempi più brevi, ma questo finalmente, perché noi italiani siamo sempre stati capaci di vivere al di sopra dei nostri mezzi. Se quindi abbiamo capito che bisogna essere più ragionevoli, a me questo può sembrare solo positivo. Da lì io tutta questa bufera proprio sinceramente non la vedo, e con me tutte le persone, figli miei che lavorano, amici e conoscenti vari, non vedono questa situazione. Ma quello che dicevamo proprio prima, l'Italia è un paese ricco, è un paese solido, è un grande paese industriale, è un grande paese che ha delle forze imprenditoriali capaci di resistere appunto anche alle difficoltà internazionali, ma è un paese che non cresce, è un paese in cui ci sono delle disuguaglianze, in cui ci sono dei ricchi, c'è un ceto medio, ma in cui ci sono anche dei poveri, e non dobbiamo dimenticarci anche di quelli che sono più poveri, non dobbiamo dimenticarci delle grandi disuguaglianze che ci sono tra nord e sud dell'Italia. Non si può fare un giudizio comunque complessivo, l'Italia sta bene o l'Italia sta male. L'Italia ha dei problemi come li hanno gli altri paesi. Compito della politica e compito degli italiani è quello di affrontare realisticamente questi problemi, di rispondere a questi problemi e di cercare di sfruttare le opportunità per crescere di più, per fare più, creare più ricchezza, e quindi per avere la possibilità di essere anche più equi nella distribuzione di questa ricchezza, cercando di limitare le disuguaglianze. Ma le disuguaglianze è giusto anche che ci siano, perché bisogna anche premiare il merito, premiare la capacità, dare la possibilità alle persone, se sono brave, se fanno il loro dovere, se aumentano la ricchezza del paese, di comprarsi anche una bella macchina e di sfoggiarle, di fare le vacanze. Quindi è una società che deve essere libera di crescere, e la politica deve rispondere a questa libertà di crescita, libertà delle persone, che senza dimenticare appunto l'esigenza poi dell'uguaglianza di fondo. Comunque grazie a Margherita per la sua testimonianza. Indubbiamente non bisogna essere catastrofisti, non bisogna essere pessimisti, ma bisogna guardare le cose con realismo, e i problemi ci sono, vanno affrontati però i problemi, perché si può certamente sfruttare anche tutte le opportunità che ci sono, ed è un peccato in fondo non sfruttarle. Paolo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Dunque, senta, il discorso di Berlusconi è un discorso molto fanfaniano, non c'è mica niente da fare. Fanfani creò, anzi ricreò, perché c'era già l'IRI, l'EFIM e la GEPI, ricreò la situazione anteguerra per fare da contrappeso alla liberalizzazione dell'industria che stava uscendo negli anni 50. Questo è il guaio vero dell'Italia, che poi la liberalizzazione è sempre diventata meno liberalizzazione, e naturalmente grazie anche all'appoggio e all'apporto del Partito Comunista siamo diventati praticamente una economia più che statalizzata. Oggi come oggi non c'è più l'IRI, sì, a parte che ci sono stesso una miriade di aziende a partecipazione statale, ma ci sono le cooperative, specie quelle rosse, che è un'economia assolutamente diversa dalla economia privata, è un'economia sostenuta, tant'è che loro non pagano le tasse, anche se di cooperativa hanno il nome, ma in effetti sono delle SPA che appartengono a persone molto ben individuate, molto ben conosciute. E questo tipo di doppia economia che abbiamo sempre avuto in Italia crea il problema, per non parlare poi della deindustrializzazione che abbiamo avuto dalla fine degli anni 70 arrivare ad oggi. L'industria fa schifo, sporca, ci impedisce di respirare, stiamo morendo, i bambini muoiono a tonnellate, a migliaia, e questi sono i problemi sì, certo, che abbiamo. Io la ringrazio, sono problemi, lei delinea certo in maniera certo, stando da una parte all'altra, c'è un problema di un pregiudizio antiindustriale in Italia, che è un problema sicuramente forte, un pregiudizio antiindustriale che qualche elemento comunque l'ha avuto, certe industrie certamente inquinavano, ma negli ultimi anni sono fatti grandissimi passi avanti e questo pregiudizio peraltro è rimasto, anche se l'industria è un elemento fondamentale, quello che crea la ricchezza e quello che andrebbe sostenuto, andrebbe difeso, ma come diceva anche il dottor Benedetti prima, ci sono anche ostacoli burocratici all'insediamento, alla crescita delle imprese, c'è un pregiudizio antiindustriale di fondo che indubbiamente ostacola anche il consenso verso le possibilità appunto di sviluppo dell'industria. Ma mi sembra intrigante anche il paragone che lei ha fatto con Fanfani negli anni 50, la realtà era certamente diversa, c'era una realtà di ricostruzione, la necessità di ricostruire, quindi c'era un problema di partecipazione diretta anche dello Stato nella ricostruzione e indubbiamente l'industria pubblica ha avuto un ruolo fondamentale in questo, soprattutto nei primi anni con l'IRI, lei lo ricordava, ma anche con l'ENI, con gli altri settori pubblici, e Fanfani delineava un certo modello di società che si avvicinava molto all'economia sociale di mercato. Io con questo vorrei chiedere il giudizio appunto del professor Quadrio Curzio su quanto sia valido un paragone tra quella realtà, non tanto tra Fanfani e Berlusconi, che lasciamo stare i paragoni storici, ma tra quanto quella realtà degli anni 50 e quella attuale. Professor Quadrio Curzio. Ma dal punto di vista del funzionamento dell'economia le differenze sono molto profonde, perché allora avevamo un'economia che andava verso la ricostruzione e comunque non era immersa nella completa libertà dei mercati e nella completa libertà dei movimenti valutari. La nostra ricostruzione fu certamente molto molto importante, anche perché le scelte furono fatte con grande tempestività e il cosiddetto miracolo economico non fu solamente la denominazione, ma fu l'espressione di una sostanza. Grandi personalità furono a quel tempo, e ne cito due tra tutte perché meritano sempre di essere citate, che sono Einaudi e Vanoni. Oggi noi abbiamo un sistema pieno di dualismi, perché abbiamo imprese manifatturiere fortissime che riescono a competere sui mercati internazionali per merito proprio. Abbiamo imprese arretrate, soprattutto in taluni comparti dell'economia dove non c'è sufficiente concorrenza, e non credo si possa dire che abbiamo un ceto politico preso nel suo insieme, maggioranza e opposizione, che davvero ci dà la speranza di un progresso costante su un disegno di progresso. Sotto questo profilo vorrei notare, non in risposta all'ascoltatrice precedente, vorrei notare che, come ha detto lei, conduttore, dottor Fabi, l'Italia è un paese forte, ma il problema è che potrebbe essere molto, ma molto più forte, questo è il problema, e inoltre ha alcuni punti di debolezza che, se dovessero andare a rottura, ci esporrebbero davvero a una catastrofe, e il punto peggiore di debolezza è quello del debito pubblico, ed ecco perché io credo che tutto sommato in questi 3 anni il Ministro dell'Economia abbia fatto il meglio del fattibile in una contingenza così difficile. quello di tenere i conti pubblici sotto controllo, evitare un'esplosione del debito, tant'è che oggi, anche ieri o l'altro ieri, Wall Street Journal diceva i conti pubblici italiani mostrano già un avanzo primario e il percorso verso il pareggio è un percorso credibile. Ma detto questo non basta perché bisogna fare di più su un modello di sviluppo che potrebbe portarci, io lo dico sapendo quello che sto dicendo, molto ma molto vicino a un'economia come quella tedesca. Ahimè, abbiamo solo alcune isole che assomigliano all'economia tedesca, il resto non è così. Ecco, vorrei sentire il dottor Benedini sul punto anche del pregiudizio anti-industriale che c'è in Italia, che è parte della popolazione ma parte anche della politica. Dottor Benedini. Ma guardi, io sono ottimista di natura, io credo che l'industria italiana abbia la forza per aiutare sicuramente il paese a uscire dalla crisi, ma per fare questo sia molto chiaro, io non mi sono, mi ha un po' deluso anche l'opposizione invece di presentare delle proposte, invece di fare un qualcosa di utile per il paese, continua a parlare di passi indietro, continua a parlare di dimissioni, ma non vengono fatte delle proposte concrete. Credo che senza un'opposizione che faccia proposte concrete noi non possiamo andare da nessuna parte, e quindi mi auguro, perché quello che non ha bisogno il paese è una cosa, non ha bisogno un'altra crisi politica in questo momento. Le industrie sono contro una situazione di questo genere, perché nessuno ha la bacchetta magica per poterci fare di colpo, diciamo così, cambiare assolutamente il passo del paese. È bene che si vada avanti, è bene che si facciano delle proposte, è bene che il governo aiuti ancora di più per lo sviluppo, però crisi in questo momento auguriamoci che non ce ne siano, sarebbe veramente un disastro per l'Italia, perché significherebbe avere 6 mesi, 8 mesi di praticamente di rigidità assoluta senza avere nessun sbocco. Quadro Curzio ha detto una cosa molto bene, grazie a Tremonti noi abbiamo tenuto i conti della spesa fermi e abbiamo sicuramente dato un esempio anche all'Europa di come l'Italia vuole uscire dalla crisi. Naturalmente non aspettiamoci che si compiano dei miracoli, bisogna ripartire con gli investimenti pubblici, soprattutto per le infrastrutture di cui tanto abbiamo bisogno, e bisogna, ecco, spendere quei pochi soldi che ci rimangono per fare delle cose utili. Le imprese cosa si aspettano? Le imprese si aspettano anche un miglioramento della tassazione, di questo non ne abbiamo parlato oggi, ma sicuramente grava sul sistema economico del paese una tassazione veramente molto alta, quindi si aspettano anche un qualcosa in questo genere, cosa che non è stata annunciata da Berlusconi un'altra volta. Quindi direi che noi abbiamo la forza per sostenere lo sviluppo, abbiamo la forza per andare avanti. Naturalmente il governo, naturalmente la politica soprattutto, non soltanto il governo, la politica in generale deve aiutare e deve fare quello che ci si aspetta dalla politica, vale a dire dare una prova al sistema economico del paese che si fanno le cose in modo serio e soprattutto, ripeto ancora una volta, nessuno ne ha parlato, ma io continuo a insistere che la liberalizzazione sarebbe una cosa molto importante e di questo assolutamente non se ne è parlato. E questo bisognerebbe parlarne a lungo, dedicheremo anche delle trasmissioni nei prossimi giorni su questo. Tra l'altro è in corso in questo momento un incontro, un vertice tra le parti sociali in previsione, in preparazione dell'incontro che ci sarà nel pomeriggio con il Presidente del Consiglio. Eccoci per l'ultima parte del nostro programma, della nostra analisi del discorso di ieri di Berlusconi, ma soprattutto della situazione dell'economia italiana, di quello che ci sarebbe bisogno per sfruttare, per superare le difficoltà del momento, per sfruttare le opportunità, per dare maggiore competitività alle imprese. Davide da Venezia, buongiorno. Buongiorno. Senta, guardi, il paese sarà anche ricco, però noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non è capace di fare il Presidente del Consiglio, cioè si è messo a fare un gioco più grande di lui. Ha fatto un'entrata alla grande 20 anni fa, pensava di comprare tutti, di soggiogare tutti, e adesso ci ritroviamo a un passo dal baratro. E allora, cioè, perché manca l'attitudine di fondo, non solo a lui, ma ai politici italiani, che è quella della coscienza sociale, cosa che hanno i politici scandinavi o tedeschi. E se manca questa attitudine di fondo, cioè non vai avanti, non fai l'interesse del paese, fai l'interesse delle tue tasche. Ecco, la ringrazio di queste sue considerazioni, e ovviamente il Presidente del Consiglio non si è nominato da solo, l'hanno nominato gli italiani, l'hanno riconfermato gli italiani, siamo una democrazia e quindi dobbiamo rispettare anche la democrazia, liberi poi di criticare quanto fa il Presidente del Consiglio, come lei ha fatto, come ha criticato, peraltro abbiamo criticato anche i nostri ospiti, hanno sollevato delle critiche particolari su singole prospettive, lei fa una critica più generale, indubbiamente. Il tema del conflitto di interessi, delle leggi ad personam è certamente un tema di attualità e questo Presidente del Consiglio ha molti punti deboli, però non dobbiamo dimenticare che deve lui, perché ha avuto dagli italiani il mandato di guidare l'Italia, deve lui guidare il governo e ha la ragione nel rivendicare questa possibilità, questa necessità di guidare il governo ed è giusto anche sollecitarlo a guidare il governo in maniera operativa, in maniera costruttiva, in maniera di osservare le necessità del bene comune e non solo gli interessi personali, e questo è giusto farlo, ma non dobbiamo dimenticarci che siamo in una democrazia e il popolo comunque ha l'ultima parola. Francesco da Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'intervento. Voglio fare una piccola premessa, no? In quanto i politici ritengo che ci raccontino soltanto bugie, e questo ormai lo pensano più o meno tutti. Quindi a questo punto, visto che ci raccontano un sacco di bugie e non riescono mai a mettere in atto quello che promettono, faccio una proposta che credo essere rivoluzionaria. Io vorrei collegare i loro emolumenti alla loro bravura, e la loro bravura alla misura dello spread tra BTP e Bund. A ogni mezzo punto di variazione dello spread, la riduzione che devono crearsi è del 20% sugli emolumenti. Se i tedeschi sono così bravi da riuscire a mandare avanti una Germania che cresce dell'8,5% come PIL, mentre invece noi no, a questo punto qua loro se lo meritano lo stipendio, i nostri politici no, quindi a ogni mezzo punto di variazione di spread BTP Bund meno 20% fino all'azzeramento totale. La ringrazio, la sua proposta è abbastanza provocatoria per essere comunque significativa di un clima, per dire i politici dovunque devono anche rispondere di quello che fanno, rispondono gli elettori indubbiamente, ma certamente la scadenza dei 5 anni tra una elezione e l'altra è una scadenza certamente lunga che merita riflessione, ma che ogni tanto poi non porta veramente a un giudizio, soprattutto col sistema elettorale italiano, sarebbe un altro problema quello del sistema elettorale su cui discutere, non porta a un giudizio di merito sull'effettiva competenza e efficacia dei singoli deputati. Il rapporto con la politica è un rapporto certamente complesso. Comunque quello che lei sottolinea, cioè il fatto che comunque una revisione dei meccanismi di remunerazione della politica ci vuole, ed è uno dei temi su cui la politica è latitante. La politica non riesce a riformare se stessa, certamente qualche piccolo taglio poco significativo sulle auto blu o sui servizi degli uffici, ma per esempio sul taglio drastico del numero dei parlamentari, sull'abolizione delle province, resta comunque il fatto che anche tra maggioranza e opposizione non c'è un accordo per intervenire fortemente. Allora vorrei però avviarci ormai alla conclusione con qualche riflessione costruttiva su quello che si può fare realisticamente. Certamente si può parlare anche di grandi modelli sociali, ma dobbiamo affrontare anche da una parte le incertezze che vengono da una crisi internazionale che condiziona notevolmente l'Italia, in cui l'Italia rischia di essere appunto un po' un vaso di coccio se non riesce a darsi una solidità interna e una capacità di essere credibile all'esterno. Una proposta concreta, abbiamo già fatta prima, ma ribadiamola, una proposta concreta per affiancare appunto la responsabilità e la partecipazione verso lo sforzo che deve fare comunque la politica. Dottor Benedini, una proposta concreta, lei ha già parlato molto di liberalizzazioni, le liberalizzazioni potrebbero essere la chiave di volta per dare una spinta nuova all'economia italiana? Ma guardi, sicuramente, anche se questo ultimo scorcio di legislatura io ci credo poco che si possa fare qualcosa in quel senso, però come ho detto prima, anche le opposizioni devono fare il loro lavoro, devono dare un aiuto per uscire da questa crisi del paese, e quindi io credo che la cosa migliore da fare in questo momento è veramente una coesione tra parti sociali, governo e opposizioni, per trovare una forma, per trovare la possibilità di fare qualcosa veramente per lo sviluppo e fare qualcosa per le imprese. certamente cosa vuole. Abbiamo davanti un periodo non facile, sappiamo che comunque sia dobbiamo combattere su tutti i fronti, soprattutto su quello diciamo così della internazionalizzazione delle nostre imprese. Sappiamo che dobbiamo avere non aiuti, noi non vogliamo aiuti, ma vogliamo semplicemente che venga fatta una semplificazione del sistema, ma che venga fatta veramente. L'ho detto prima, le uniche leggi che sono state fatte in materia sono quelle, risaliamo, si figuri, a Bassanini, dopodiché non è stato fatto più niente, dico più niente, e noi ci troviamo nel pantano di questa legislazione diciamo che va contro il diciamo va contro l'interesse del paese, perché va contro l'interesse delle imprese, e quando si va contro l'interesse delle imprese in realtà si va contro l'interesse dei lavoratori e di tutti quanti. Quindi direi, il mio è un appello generale, veramente, che l'opposizione la smetta di dire i passi indietro, le dimissioni o quant'altro. Crisi non ne abbiamo bisogno che tutti lavorino in un certo senso per aiutare questo paese a uscire dalla crisi. Grazie, dottor Benedini. Professor Quadrio Curzio, una proposta concreta. La proposta concreta è fatta da tre pezzi di proposta, una che maggioranza e opposizione osservino e ascoltino molto bene quello che dice il Presidente della Repubblica, che tra l'altro è una personalità molto rispettata anche all'estero, molto accreditata, e questo è importante per il nostro Paese. La seconda parte della proposta è quella che dicevo prima, e cioè una riduzione dei contributi, delle aliquote contributive pari a un punto di PIL, e contemporaneamente un aumento dell'IVA per lasciare il gettito invariato, secondo calcoli ovviamente di istituti di ricerca sulla base anche dell'esperienza tedesca. Primo anno è un meno delta di PIL dello 0,2, secondo anno invariato, terzo è quanto un incremento di PIL dello 0,5%. Terza, e questo è un grande auspicio, che l'Europa, che peraltro ha preso delle misure corrette, invece di metterci 2 anni a prenderle, ci metta 2 mesi. Quindi anche l'Europa deve fare la sua parte indubbiamente nel sostenere, e abbiamo visto negli ultimi mesi come anche nell'intervenire sul caso greco, che è un caso molto ma molto più piccolo, ci ha messo settimane e settimane. E per concludere, Guido Gentili, la politica però sembra un po' più tesa ad andare in vacanza in questa fase, più che a prendere decisioni storiche. Beh sì, effettivamente è così, nonostante che poi abbia in un sussulto, diciamo, finale proprio, abbia ridotto di una settimana le sue vacanze, insomma, ieri era palpabile l'impressione che appunto si volesse correre, diciamo, chiudere questo breve appuntamento parlamentare per andare in vacanza. E, ripeto, speriamo bene, cioè nel senso che i mercati e non vanno in ferie, e quindi ci aspettano comunque giorni certamente complicati, speriamo non difficili, fino al punto che l'Italia è di nuovo venga di nuovo coinvolta in una spirale diciamo di aumento dei tassi di interesse, che per noi sarebbe in questo momento difficilissima da affrontare. Grazie, grazie a Guido Gentili. Per ora i mercati oggi sembrano reagire positivamente dopo le perdite dei giorni scorsi. Tutta Europa sta crescendo tra lo 0,5 e l'1%, niente di clamoroso. Speriamo che sia una pausa di riflessione che possa prolungarsi. Ringrazio appunto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, professor Alberto Quadrio Curzio, economista, professore di economia politica alla Cattolica di Milano. Ringrazio Benito Benedini, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, così come ringrazio Pietro Lacorte in regia, Giorgio De Luca in redazione, ringrazio quanti ci hanno seguito. L'appuntamento è per domani.